9 in punto. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia. Sento un ritorno orribile in cuffia, ma adesso l'ottimo Paolo Corleoni, che è qua in regia a Trento, dove ci troviamo per il Festival dell'Economia, me l'ha subito tolto, se n'è accorto immediatamente. Siamo appunto in Piazzetta Pasi a Trento, da dove trasmettiamo oggi. C'è il Festival dell'Economia che inizia, l'inaugurazione questo pomeriggio alle 15 e il tema di quest'anno è appunto sovranità in conflitto, come si diceva. Ebbene, insomma, come si diceva, quale momento migliore per affrontare questo tema, il tema della sovranità in conflitto, in particolare il conflitto tra sovranità del quale più abbiamo discusso in questi mesi e probabilmente in questi anni e del quale torneremo a discutere, quello tra le sovranità nazionali e la sovranità dell'Unione Europea. Se nel frattempo sentite dei rumori orribili di sottofondo è perché appunto trasmettiamo sostanzialmente da una piazza e passano dei camioncini per pulire per terra, insomma, ecco, per lasciare la città con un aspetto decoroso. Parliamo di questo e partiamo dalla chiusura della procedura per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea. Saluto il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, buongiorno. No, a lei e a tutti gli ascoltatori. Iniziamo da qua. Iniziamo dalla chiusura della procedura arrivata ieri, insomma, grande soddisfazione sentiamo in giro, e però, Ministro, non è che adesso pioveranno fantastiliardi sull'economia italiana e insomma chissà quali politiche rooseveltiane, keynesiane riusciremo a far partire per questo paese, no? No, è un presupposto per avviare una nuova fase nella nostra economia e soprattutto nella capacità di attingere il credito, però è soltanto un presupposto, occorrono molte altre cose. Intanto, mentre la Francia è ancora in una situazione di difficoltà con l'Europa e anche altri paesi non sono usciti da una situazione di controllo particolare dei loro conti, è una soddisfazione per l'Italia aver mostrato che, avendo svolto tutta una serie di cose richieste, oggi è nella condizione di stare in Serie A in Europa. E a questo punto probabilmente si può anche trattare in maniera più semplice sul tema dello scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit, secondo lei? Allora, guardi, io delle volte immagino l'ascoltatore quanta fatica fa a seguire questi ragionamenti. Lo spiego nel modo più semplice. I soldi che abbiamo a disposizione noi li spendiamo tutti, in parte per fare iniziative che sono, insomma, la spesa pubblica, per fare anche iniziative di investimento, in parte per pagare il debito, che è un debito molto elevato. Se vogliamo fare ulteriori investimenti dobbiamo necessariamente ricorrere al credito e l'Europa su questo deve autorizzarci. L'autorizzazione significa rendere più elastico il patto di stabilità, renderlo meno rigido. Questo meccanismo si raggiunge se le iniziative che l'Italia propone sono non a costo zero, perché a costo zero facciamo già tutto quello che si può fare, ma a saldo zero, cioè quello che investiamo adesso è un costo, fra un anno diventerà un ricavo, cioè rientreremo dell'investimento fatto. E questo a cui noi puntiamo, non puntiamo a spendere di più, ma a fare investimenti che diano al nostro sistema un vantaggio anche sotto il profilo delle entrate, solo che non avvengono immediatamente, ma avvengono in un tempo differito. Ripeto, ma da questo punto di vista si può riaprire la trattativa oppure no? Insomma, si può ragionare con l'Europa da questo punto di vista adesso che siamo usciti dalla procedura per deficit eccessivo? Sicuramente siamo nella condizione di trattare con maggior forza, perché abbiamo i conti a posto. Benissimo. Dall'altra parte però, come dire, l'Europa mette dei paletti precisi e ci sono dei paletti precisi anche dal punto di vista della politica fiscale, che è un altro elemento rilevante. Bruxelles sulla politica fiscale. Sulla politica fiscale, cosa ci dice l'Europa? Non dovete tassare il lavoro, la produzione, dovete tassare i consumi e dovete tassare le proprietà che non danno, che non sono produttive, insomma, dovete tassare la rendita, dovete tassare gli immobili, questo ci ha detto. In parte sono le cose che ha fatto il governo Monti e che vuole continuare a fare anche il governo italiano. Noi stiamo anche un po' attenti al mercato interno e quindi cerchiamo di non sottrarre risorse dalle tasche di quei cittadini che, spendendo e garantendo alla propria famiglia condizioni di vita buone, tengono anche in funzione tutta una serie di filiere produttive che sono le filiere produttive del mercato interno. Però nella mia testa, Ministro, dato che le risorse sono limitate, evidentemente, e per definizione, questo vuol dire che se devi lavorare su una detassazione del lavoro e quindi se devi lavorare sul cuneo fiscale, evitare l'aumento dell'IVA, stando anche a quello che ci dice Bruxelles, è difficilissimo e sarebbe addirittura forse persino in contrasto con quello che dice l'Europa. Sempre un problema di equilibrio tra le diverse parti delle operazioni. Allora, non si creerà ricchezza semplicemente con manovre di carattere tecnico, di tecnica finanziaria. Per creare ricchezza servono sempre attività produttive ed è la grande sfida sulla quale siamo impegnati. E lei dice una cosa giustissima: se non aumentiamo, è stata decisa precedentemente la partita dell'aumento dell'IVA, il governo se non fa niente si trova l'IVA che aumenta di un punto, giusto? Sono 4 miliardi di euro che entrano nelle casse dello Stato, già spesi dal bilancio dello Stato attuale, quindi per poter togliere quel punto dobbiamo trovare 4 miliardi che sostituiscano quell'entrata, non so se è chiaro, no? Non è un'intenzione del governo aumentare l'IVA, è una cosa decisa precedentemente e che entra in funzione se non si disattiva la decisione. Per disattivarla bisogna trovare 4 miliardi di nuove entrate o 4 miliardi di tagli o una miscela tra le entrate e i tagli in modo tale da riequilibrare questi 4 miliardi che verrebbero a mancare. Su questo Saccomanni sta lavorando, cercando di costruire una proposta che si avvicini il più possibile, tenendo conto che i conti sono quelli che sono, cercando di avvicinarsi il più possibile all'esigenza di salvaguardare il reddito delle famiglie e del mercato interno e delle filiere che producono per il mercato interno, con l'esigenza di continuare ad avere le risorse su cui si basa il bilancio attuale. E pensa che ce la si possa fare? Lo auspico, io spero. Spero di sì, vedo Saccomanni ministro non arreso all'idea che bisogna lasciare l'aumento così come deciso in precedenza e non da noi, ma che cerca di trovare una soluzione. Adesso abbiamo discusso varie volte e vediamo un attimo cosa riuscirà a proporre. Ma lo ripeto, non è un problema che ci inventiamo, è come una famiglia che decide improvvisamente di comprarsi un'automobile, ma i soldi che aveva li ha già tutti spesi in altre partite. Sì, poi bisogna vedere, Ministro, la interrompo, poi bisogna vedere se aumentando l'IVA l'effetto potenzialmente depressivo sui consumi non porti invece già in automatico a una diminuzione di quei 4 miliardi famosi che nella sostanza abbiamo già speso, no? Perché poi anche quello raggiunge. Lei fa un ragionamento molto corretto, anche una parte di noi è preoccupata di questo. Si ragiona sugli effetti di questa operazione perché potrebbe capitare che paradossalmente si riducono i consumi e la presunta entrata non c'è più. Allora, la porterei sul tema dell'Ilva, che è l'altro tema caldo di queste ore che naturalmente la riguarda strettamente. Ieri lei ha detto che sostanzialmente bisogna separare chi risana dal punto di vista ambientale da chi ha prodotto il danno ambientale sostanzialmente. E però senza i soldi di chi ha prodotto il danno ambientale non si risana. Esattamente, ma infatti, ma io penso un'operazione che nel piccolo si chiamerebbe un'iniziativa in danno. Cosa succede quando, per esempio, una piccola azienda inquina un terreno e poi non lo bonifica? Che il pubblico bonifica il terreno e si fa pagare dall'azienda. È ovvio che a pagare deve essere sempre chi è inquinato. A operare per il disinquinamento non è detto, può essere anche un soggetto che si attiva ed è credibile nel farlo per riportare la situazione in una situazione compatibile sotto il profilo ambientale, perché non ci sono soltanto delle bonifiche da fare, è un'operazione molto più complicata. Allora, l'ILVA nel produrre acciaio per ora è un'azienda che funziona, produce acciaio e lo vende, se ci sono problemi li vedremo in una sede distinta, ma nel tempo ha inquinato e continua ad avere degli standard nella produzione che creano su questo tema dei problemi. Allora, bisogna operare su questo secondo comparto, rispettando quelle che sono le cosiddette prescrizioni AIA, sapendo che sono anche molto dure da rispettare, ma molto opportune, e le dico soltanto una cosa, i campi minerari, dove ci sono i materiali minerari, sono 70 ettari, 70 ettari per chi ci ascolta sono 100 campi di calcio affiancati, messi uno vicino all'altro. Creare una tettoia che copra tutto questo è un'opera unica, non è mai avvenuta, credo, al mondo, non risulta che ce ne sia una identica, quindi è un'operazione immensa. Noi pensiamo che questa parte, ho fatto l'esempio della tettoia, ci sarebbe il problema della copertura di altri trasportatori, potrei farle l'esempio di tutta la cosiddetta linea caldo, per far tutto questo è probabile, secondo la mia opinione, che chi ha cercato di far funzionare l'azienda in un altro modo non abbia o la voglia o l'intenzione o la capacità di farlo, per cui secondo me bisogna separare le due figure, un commissario ad acta andrebbe in questa direzione, l'altra soluzione più radicale è un commissario che gestisca tutto. Non ho capito però una cosa, Ministro, si possono ipotizzare quindi due commissari, cioè uno per il risanamento e uno per la gestione dell'azienda? No, o ce n'è uno unico o l'azienda continua a gestirsi con un sistema che risponde alla proprietà e il governo dice il risanamento me lo faccio io con un commissario ad acta, tu paghi perché... E lei ha un'ipotesi favorita? Se c'è un commissario che ha in mano tutto, non serve farne un secondo. Certo, ma lei ha un'ipotesi favorita da questo punto di vista? So che ne dovrete discutere oggi, no? Bisogna vedere qual è la soluzione che funziona meglio, perché lei, ripeto, si tratta di affrontare problemi che hanno anche la caratteristica dell'unicità. Non sono mai stati affrontati e risolti su quella scala, su quella dimensione. E sicuramente occorre una norma legislativa, si farà quindi un decreto che poi verrà trasformato in una legge. Le leggi hanno la caratteristica di dover in qualche modo affrontare situazioni non puntiformi, ma anche se di questa portata, ma situazioni generali. Si sta un po' ragionando su questo. Io sono indifferente rispetto alle due soluzioni, mi interessa una soluzione che funzioni. Tra l'altro di siderurgia avete parlato a Bruxelles nel Consiglio Competitività, di questo ha parlato anche col commissario Tajani lei, insomma da quel che ho capito c'è l'idea di fare anche un ragionamento più complessivo, tanto che non so se sta per convocare o ha già convocato una riunione della filiera. Domani pomeriggio, a seguire, dopo il Consiglio dei Ministri, faremo un incontro sulla siderurgia. Allora, ci sono tutta una serie di situazioni in cui la siderurgia si trova in difficoltà. Intanto la siderurgia italiana non è soltanto la siderurgia che parte dai minerali e li trasforma in acciaio, è anche la siderurgia che parte da cosiddetta materia prima secondaria, cioè da rottame, e trasforma attraverso forni elettrici in acciaio. Questa seconda parte è più della metà della nostra produzione di acciaio, quindi abbiamo sia la produzione da minerale sia la produzione da materia prima secondaria, e la crisi complessiva delle attività produttive, si pensi soltanto al settore dell'automobile, ma sono moltissimi altri settori, ha evidentemente fatto calare la domanda di acciaio, quindi un po' tutte queste aziende sono in sofferenza e in difficoltà e tutte si stanno ponendo il problema, uno, di come superano questa fase di crisi, di calo di produzione, di calo di domanda e di conseguenza di calo di produzione. Secondo, si stanno ponendo il problema di come ammodernarsi, con che soldi, con che investimenti, per fronteggiare la fase successiva, cioè quando riprende la produzione devono essere competitive con le altre grandi acciaierie che sono in giro per il mondo. E quindi domani pomeriggio. A proposito di incontri, Ministro, quando lo vede Marchionne? Che insomma eravamo un po' in sospeso da questo punto di vista, no? Ha detto, insomma, vedrò Marchionne, gli parlerò il tema naturalmente del fatto che Fiat... Lo vedo a giorni, non so se le posso dire quando, perché vorrei avere poi sorprese folle di giornalisti che vi assediano, ma è già fissato l'incontro, lo vedo, poi vi dirò. E poi ci dirà che idea si è fatto su Fiat, insomma, adesso tra l'altro oggi c'è l'assemblea di Exor, ma al di là di questo, insomma, naturalmente no, c'è la questione innanzitutto della residenza fiscale di Fiat Industrial, no, che ha posto nuove preoccupazioni sul fatto che l'azienda, che tra l'altro dovrebbe procedere, no, alla chiusura definitiva, l'accordo definitivo su Chrysler. Della sede fiscale la trovo una questione che viene un po' enfatizzata, intanto hanno smentito categoricamente dicendo è falso che, ma non è che se uno sposta la sede fiscale e la porta in un altro paese le tasse non le paga più in Italia, diciamo, tutta l'attività della Fiat che si svolge in Italia, sai cosa è la novità? Ecco, non paga più le tasse perché le pagherà a Londra, in Gran Bretagna, non funziona esattamente così, ma al di là di questo io quello che voglio capire da Marchionne, quindi non mi voglio fare un'idea che nasce dalla lettura di quotidiani, che nasce dagli ascolti delle opinioni che si raccolgono in giro, voglio sentire che intenzioni ha rispetto alla presenza della Fiat in Italia, la più grande azienda italiana, 120.000 dipendenti, produce per il mercato italiano nel 2013 400.000 vetture, quindi il 30% di quanto verrà, 400 e qualcosa mila vetture, il 30% di quanto verrà prodotto in Italia, non è poca roba, insomma. Di quanto verrà venduto, scusami, in Italia. Sì, no, direi decisamente di no. Un'ultima domanda, Ministro, collegata se vogliamo alle raccomandazioni che ci sta facendo Bruxelles dal lato anche... reti energetiche di telecomunicazioni. Oggi forse Telecom procederà, insomma, una decisione sullo scorporo della rete. Come giudica la notizia? Allora, siccome proprio oggi è convocato il Consiglio di amministrazione, è bene non anticipare, non dire nulla su questo argomento e lasciarli decidere serenamente. Si tratta di una grande azienda privata. In generale, diciamo così, la questione dello scorporo della rete sia nel settore gas, elettricità e telecomunicazioni? Io voglio dirle un principio di funzionamento di tutto. Laddove si mettono in discussione interessi nazionali, le reti, c'è sempre un fortissimo interesse dello Stato italiano e di questo governo. Noi vogliamo vederci bene dentro e faremo tutte le iniziative che servono a garantire gli interessi del Paese. La ringrazio, grazie Flavio Zanonato, buona giornata. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, sempre in diretta da Trento, dove si sta svolgendo appunto si apre oggi il Festival dell'Economia. Saluto qua in studio con noi il professor Sandro Trento, che insegna all'università locale. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno appunto, come si diceva, Laura Castelli, componente o vicepresidente della Commissione Bilancio. Castelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cos'è, vicepresidente? No, sono capogruppo della Commissione Bilancio. Capogruppo del 5 Stelle nella Commissione Bilancio. Allora, professor Trento, come si diceva anche con Zanonato, se vogliamo, non è che i margini che si aprono a questo punto con Bruxelles siano proprio pazzeschi, in tutta sincerità. Cioè, vedo molta gente che festeggia, però insomma, forse un po' a vuoto. Sì, basta pensare che le previsioni della Commissione per l'anno in corso prevedono un deficit del 3%, ma si fondano su un'ipotesi di caduta del PIL dell'ordine dell'1,3%. Queste erano le previsioni che venivano fatte. Le previsioni più recenti parlano di quasi il 2 di caduta, 1,8%, e questo già di per sé ci porterebbe oltre il 3% per l'anno in corso. E per l'anno prossimo le previsioni di crescita sono più basse di quelle che avevamo fino a pochi mesi fa, quindi già soltanto per aspetti legati alla congiuntura e alla caduta del PIL i margini non ci sarebbero in teoria. Laura Castelli, vorrei partire da questo, dato che, come si diceva, il tema di quest'anno del Festival dell'Economia è sovranità in conflitto, no? La camicia di forza, per così dire, alcuni la interpretano in questo modo, dell'Europa, è troppo stretta secondo voi? Ma guardi, intanto noi abbiamo fatto un'intera campagna elettorale nazionale spiegando che cos'è davvero la camicia di forza del pareggio di bilancio, per esempio. È chiaro che in un momento come questo, in cui si torna da Bruxelles felici di essere rientrati da questa procedura di infrazione, noi rimaniamo un po' basiti, nel senso, ho sentito dire bene, non c'è molto da festeggiare, e i conti e i calcoli di cui si parlava prima sono gli stessi che noi qualche mese fa in commissione speciale diciamo essere conti, insomma, che non ci rassicuravano, che di cui avevamo dei dubbi. Il 3%, il 2,9 anzi, risulta essere un calcolo coperto da maquillage, in realtà non è un calcolo esatto, il limite del fosso è veramente molto vicino. E poi ci sono degli aspetti riguardanti le raccomandazioni europee di cui non si sta forse parlando abbastanza, e non si sta parlando di come mettere mano a queste raccomandazioni. Ci sono questioni importanti e rilevanti rispetto ai criteri di bilancio. Non ci possiamo dimenticare che siamo passati da un teniamo il 3% a un pareggio di bilancio, e il nostro Stato ancora non sa come fare dal punto di vista contabile. Si parla di questioni fiscali, ma non si parla di paradisi fiscali. Noi abbiamo messo in campo delle proposte anche riguardo a questo, le porteremo tutte quante, ora ci metteremo punto per punto ad analizzare insieme alle commissioni, e speriamo insieme al governo, le maniere attraverso le quali stare alle raccomandazioni dell'Europa. Sono punti importanti. Oggi per esempio io sono qui al Senato, c'è una commissione congiunta col ministro Moavero, non si è parlato abbastanza di liberalizzazioni delle telecomunicazioni, delle ferrovie, delle poste, mi sembra un tema abbastanza rilevante, quindi insomma ci sono aspetti parecchio complessi. E su questo intendete presentare delle proposte, su questo? Liberalizzazioni? No, beh, sulle liberalizzazioni noi abbiamo una posizione insomma che è abbastanza particolare. I paradisi, cioè, fiscali, però, per esempio. No, ferma, però Castelli, no, non mi giri la cosa. Si fermi sulle liberalizzazioni. No, nel senso, si fermi sulle liberalizzazioni, perché questo mi interessa, insomma, questo è un punto centrale. Io sono perfettamente d'accordo che è un elemento centrale, però vorrei capire appunto come la vedete voi. Ma guardi, oggi i giornali titolavano una parte di Telecom Italia tornerà allo Stato. E poi invece leggo liberalizzazioni delle telecomunicazioni, delle ferrovie, delle poste. Bisogna capire loro che cosa intendono. Si parla di competitività, e allora capiamo se la competitività sta dentro a una perfetta liberalizzazione, oppure ci vuole un intervento dello Stato, come per alcuni settori si vorrebbe fare. Le poste stesse non possiamo dimenticarci che sono comunque quelle che fruiscono la Cassa Depositi e Prestiti, allora possiamo fare un discorso sulle poste, ma non lo vogliamo fare sui fondi che dalle poste finiscono alla Cassa Depositi e Prestiti. Non basta dire liberalizzazione per capire come il nostro paese vuole affrontare questi problemi. Tornavo al punto del paradiso fiscale, non per sviare, giuro, però nel nostro DEF, per esempio, sui paradisi fiscali sono delle proposte molto interessanti, che tra l'altro noi abbiamo sviluppato con fondazioni come la Fondazione di Banca Etica, che su queste cose cerca di lavorarci da anni, per cui c'è una proposta molto forte che si chiama Country to Country e riguarda il fatto che intanto bisogna fare trasparenza sulle rendicontazioni dei paesi. Sì, io non so, diciamo, naturalmente su quelle cose sono trattative complesse, non so francamente quanti soldi poi ne riesci a ricavare in tutta sincerità. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore, facciamo così, anche se glielo dico Castelli, sulle liberalizzazioni non mi ha convinto la sua risposta, ma col massimo della serenità. Sentiamo Massimo dalla provincia di Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Prego. Io chiamo per portare un argomento che ha molto a che fare con la sovranità di un paese, ossia la moneta. Molti partiti, molti esponenti politici parlano del ritorno alla lira per avere la sovranità sulla moneta, questo per dare slancio all'economia, stampando moneta e quindi rendendo più competitive le aziende italiane e allo stesso tempo riducendo il debito. Però nessuno dice che contemporaneamente questa azione porterebbe a una perdita del potere di acquisto delle famiglie, degli stipendi degli italiani, poi porterebbe ad una svalutazione dei risparmi degli italiani che hanno comprato i BTP tutte le materie prime aumenterebbero il loro costo, come la benzina, il gas, perché devono essere pagate in euro o in dollaro. Infine, questa manovra secondo me sarebbe adesso tardiva e inefficace, perché sarebbe stata efficace quando noi competevamo sul campo del manufatturiero con la Germania, ma adesso noi dobbiamo competere su questo aspetto, su questo campo, con la Cina, e la svalutazione economica sicuramente non sarebbe sufficiente a compensare il divario del costo del lavoro tra l'Italia e la Cina. Grazie Massimo per l'intervento puntuale. Voglio sentire anche Maurizio che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. E allora io volevo capire se in questa sovranità in conflitto si parla realmente di chi è il sovrano in questione. Perché se ultimamente si usa il termine debito sovrano, vuol dire che il cittadino ha perso la sovranità. Le votazioni sono state fatte per quale motivo? Se poi gli ordini vengono dati dalla BCE, che è un ente pubblico, che ben si sa, sono tutte SPA. Mi scusi Maurizio, debito sovrano è una definizione tecnica, non è che è sovrano. No, dico, giusto per chiarire, non è che è il debito che è sovrano, insomma, no, giusto per chiarire, però prego. Ammette che poi qualsiasi cosa si faccia è come se andasse via con un pilota automatico, vuol dire che delle leggi sono già state fatte e che sono state un po' anche imposte. Allora io chiedo se in questo convegno si parlerà anche della questione signoraggio, di che i popoli si possano riappropriare della moneta, perché la moneta, essendo un bene fittizio che è stato inventato dall'uomo e può essere usato dall'uomo, l'esempio si può vedere anche cosa ha fatto il Giappone ultimamente, ha stampato più moneta, ha creato quello sì, che praticamente la, però stati Maurizio, oggi la, come oggi europei non ma, possono Maurizio, fare. Maurizio, là bisogna vedere dove vanno a finire i giapponesi, perché qualche scossone lo stiamo già iniziando a vedere e già da questa mattina, a dire la verità. Professor Trento, su questi temi qua che hanno posto i due ascoltatori, sui quali poi voglio sentire anche Laura Castelli, perché il tema euro, non euro e via dicendo è un tema che il Movimento 5 Stelle ha posto con energia, diciamo così. Professore. Beh, è uno dei temi centrali del festival di quest'anno, appunto, l'idea che si possa avere un'unione monetaria senza aver progettato un'architettura di qualche coordinamento di politica di bilancio e di integrazione politica ha mostrato il limite, quindi il grande errore degli anni 90 è stato questo, e l'errore che tuttora molti politici europei continuano a coltivare è che, superata la bufera, si possa continuare ad avere un'architettura come quella che c'è stata prima della crisi. Questo non è possibile, non è possibile continuare a pensare di avere un'unione monetaria in assenza di altri pilastri, dall'unione bancaria al coordinamento delle politiche di bilancio a una maggiore politica unificata. Detto questo, pensare oggi di uscire dall'euro credo che sia una cosa che appartiene ad alcune minoranze, alcune frange, cioè la maggioranza dei cittadini europei a mio avviso anche in Grecia, anche nei paesi più colpiti dalla crisi, non sta pensando all'uscita dall'euro, perché sarebbe una catastrofe di dimensioni veramente grandi, cioè i costi di uscita da un sistema di unione monetaria venivano stimati dell'ordine di una caduta del PIL dell'ordine del 30-40%, cioè parliamo di eventi che nella storia umana avvengono neanche durante le crisi, quindi stiamo parlando di costi altissimi. E detto questo, c'è un problema di sovranità, giustamente, ma io la porrei in questa chiave. C'è una crisi di legittimazione dell'Unione Europea, c'è stata una crisi di legittimazione e è necessario ripensare a un maggiore potere da parte dei cittadini europei e quindi pensare a un maggior potere, io penso, del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, ripensare a una forma di maggior controllo da parte dei cittadini su queste istituzioni è indispensabile oggi per far digerire ai paesi le politiche anche di riaggiustamento. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi su questo tema qua voglio sentire appunto Laura Castelli del Movimento 5 Stelle. 9 in punto. Dunque, Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, naturalmente ormai lo sappiamo, insomma, referendum, chiedete un referendum voi per... No, per tornare a discutere di euro, la sostanza è che naturalmente per voi l'uscita dall'euro non è un tabù. Guardi, allora intanto cominciamo dall'inizio, ossia che questo paese continua a non parlare del proprio debito pubblico e quindi continua a non parlare del fatto che si trova in una condizione tale per cui la sua condizione normale di spesa è assolutamente messa KO dagli interessi sul debito. Dopodiché possiamo parlare di tutte le tematiche europee che vogliamo, ma non possiamo dimenticare che siamo dentro quest'unione, che ha ragione il professore quando dice che è un'unione monetaria e non ha mai pensato invece ad altri generi di unione, da quelle contabili a quelle che riguardano fattori tipo il welfare, l'istruzione e quant'altro. Però non ci possiamo dimenticare che siamo dentro dei sistemi che oggi stanno mettendo KO gli stati membri, soprattutto quelli i famosi metodi del fiscal compact e del MES. Dico questo perché oggi la nostra contabilità chiaramente patisce di queste cose, dimenticandosi che una questione contabile, finanziaria, economica non può andare a danneggiare i cittadini quando questi si trovano in ginocchio, perché oggi il problema è questo: bisogna decidere se stare dentro dei parametri europei oppure far vivere bene le persone che stanno nel nostro paese. E allora forse c'è qualcosa che non va. Il Portogallo qualche tempo fa ha chiesto alla propria commissione costituzionale, Corte Costituzionale, quanti punti del fiscal compact fossero costituzionali secondo la propria Costituzione. Beh, il risultato non è stato entusiasmante, più di 4 punti del fiscal compact non sono costituzionali per il paese, per il Portogallo. E allora qua c'è un problema vero, non è che stiamo mettendo troppo in primo piano il potere economico e finanziario rispetto al benessere dei cittadini, cioè questo è un criterio molto semplice, però non viene mai messo in luce in una maniera adeguata. Allora, e noi dunque, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, possiamo parlare mi scusi, la conclusione dal lato della politica fattiva qual è di tutto ciò? Dal lato della politica fattiva è che se qualcuno continua a parlare di sovranità monetaria perché si è reso conto che se da una parte ci chiedono di consolidare i nostri conti pubblici, quindi rimanere con un rapporto debito PIL del 60%, e dall'altro ovviamente ci chiedono investimenti di un certo tipo, migliorare l'occupazione eccetera, queste due cose non possono andare di pari passo con i vincoli di bilancio e con l'impossibilità di creare una moneta che non generi debito. E questo è reale. Dopodiché noi diciamo referendum sull'euro, anche qua l'informazione ci gioca, noi diciamo referendum perché siamo sconvolti da come si è messo gli stati nelle condizioni di stare dentro questo film, questo gioco, senza in realtà delineare quelli che sarebbero poi stati i punti focali che avrebbero generato i problemi. E guardate che questo era un problema che si poteva, non dico evitare, ma almeno intuire che sarebbe venuto a galla. Per cui io non credo che sia banale questa cosa, stiamo mettendo in primo piano l'economia e la finanza a discapito dei cittadini, cioè in Grecia non riescono neanche più a comprare gli anestetici, i medici vanno a comprarseli di tasca propria, cioè non so se siamo veramente consapevoli di quello che sta succedendo. Allora, il professor Trento voleva intervenire, poi ci sono, magari riusciamo anche a sentire un altro ascoltatore. Professore. Sì, rapidamente, volevo tornare sulla questione del debito. Allora, l'Italia si trova in una situazione per cui noi non riusciamo a pagarci da soli il debito. Cioè, il Giappone ha un debito pubblico più alto del nostro, ma lo colloca interamente nelle mani dei giapponesi. E per questa ragione è indipendente sostanzialmente. Il fatto che noi siamo esposti alla cosiddetta disciplina dei mercati deriva in parte rilevante dal fatto che noi italiani non siamo in grado di acquistare tutti i titoli necessari per pagare il debito. E questo fa sì che ogni giorno siamo lì con il fiato sospeso sullo spread. Come facciamo a risolvere questa questione? La strada è di ridurre il debito, assolutamente. Seconda considerazione. È un principio basilare che se le spese sono superiori alle entrate si accumula un debito, ma questo debito prima o poi va pagato. Cioè, non vorrei che si diffondesse l'idea che l'invenzione del debito derivi dalla BCE e da Mario Draghi. Noi dobbiamo comunque riportare in ordine il debito, e per riportare in ordine il debito non è che ci sono molte strade. Nella storia ci sono tre modi per abbattere il debito: l'iperinflazione, la crescita oppure il consolidamento, cioè lo Stato dichiara default. L'iperinflazione e il default sono eventi catastrofici, soprattutto per i poveri, soprattutto per le persone meno agiate. La strada che dovremmo cercare è quella di ritornare a crescere. Per far questo non si può usare la spesa pubblica, secondo me. Laura Castelli, perché poi, insomma, partendo dal ragionamento anche che faceva il professor Trento, è vero che, insomma, la finanza sarà brutta e cattiva, però se questa finanza ha in mano il nostro debito, un pezzo del nostro debito, è un nostro creditore, e quindi a norma, come dire, anche non solo di legge ma anche morale, questo debito va ripagato in qualche modo. Guardi, no? Non lo dite a noi che siamo stati quelli che abbiamo chiesto il pagamento di tutti i crediti verso la PA invece che solo i 40 miliardi che non arriveranno mai alle imprese, per cui su questo non c'è dubbio, i debiti vanno pagati, ci mancherebbe il cielo. Quello di cui però noi siamo molto preoccupati sono le modalità. Non si discute sul fatto che questo debito vada onorato e neanche sul fatto che questo si sia generato. Certo, ci piacerebbe sapere per quali motivi si è arrivati a tal punto. Noi abbiamo detto più volte, facciamo un audit fatto bene su questo debito. Dopodiché il tempo passa, il tempo corre. Per quanto riguarda la parte di debito che invece noi abbiamo all'estero, su questo siamo fortemente consapevoli, e siamo anche consapevoli che ci potrebbero essere azioni per far rientrare quella parte di debito che oggi sta fuori dal nostro paese. Basta fare una manovra. Per esempio, abbiamo un minuto e mezzo circa. Per esempio, si può pensare a una manovra che riporti la parte di debito all'interno del nostro paese, un po' come un'azienda acquista le azioni proprie, insomma, per farvi capire. Ma con quali soldi, però? Con quali soldi, però? Sì. Si trovano i modi. Noi l'abbiamo proposta e la stiamo valutando e studiando, però è uno dei metodi che bisognerebbe attuare, è necessario, direi, a questo punto. Cioè, l'avete proposta voi questa cosa qua, di far rientrare? Noi stiamo facendo uno studio molto approfondito su quello che è il bilancio, e c'è questa parte di debiti esterni, comprata da paesi esteri, che secondo noi andrebbe fatta rientrare e porterebbe sicuramente dei vantaggi, magari non immediati, però il beneficio è grande, quindi stiamo studiando, abbiamo cominciato a proporla e adesso stiamo studiando i dettagli. In 30 secondi, professor Trento. Allora, un paese normale che avesse sovranità monetaria emette moneta e ricompra il debito e quindi poi fa inflazione. Noi facciamo parte di un'unione monetaria, quindi non possiamo fare questa operazione che voi pensate, a meno che non state pensando di fare dismissioni, allora è un altro paio di maniche. Vendiamo imprese pubbliche, privatizziamo, con quei soldi abbattiamo il debito, magari partendo dal debito estero. Questa è l'operazione. Castelli, 20 secondi, dismettere, privatizzare e... Assolutamente no, non siamo per le privatizzazioni e voi lo sapete, non è questa la strada che pensiamo, assolutamente no, non è l'unica soluzione oltretutto. E qual è l'altra però? C'è un sistema per far rientrare attraverso la finanza pubblica del nostro paese le quote di debito che sono all'esterno, Vabbè, ripeto, è come un'azienda acquista le azioni proprie. Ci troncano. Ci troncano la linea, se non ringrazio, grazie a Paolo Corleoni in regia qua a Trento, Davide Ciocia che ha consentito la diretta, Alessandro Marcotulli in redazione, il professor Sandro Trento, Laura Castelli, naturalmente Flavio Zanonato che è stato nostro ospite all'inizio. Domani sempre in diretta da Trento non ci sarò io, ci sarà Gianfranco Fabi, io torno martedì. Ricordati! Mancano 32 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.